avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. La bara di Mike Buongiorno è stata trafugata, rubata dal cimitero di Dagnente, un paese vicino ad Arona dove era stato sepolto per volontà della famiglia. Il comune di Milano infatti diede la disponibilità di poter seppellire la salma di Mike Buongiorno nel cimitero monumentale del capoluogo lombardo accanto ai più illustri cittadini milanesi, ma la famiglia volle portare la salma del celebre conduttore nella cappella di famiglia che si trova in questo piccolissimo comune alle porte di Arona. Ebbene, nella notte, tra le tante notizie che possono allarmare, interessare, incuriosire, non posso fare a meno di esprimere qualche parola di commento sul trafugamento della salma di Mike Buongiorno, che occupa oggi pagine importanti sui giornali. Ieri ho visto il passaggio di tutti i suoi contemporanei, tutti i padri fondatori, questa classe sacerdotale che segna sempre più il passo degli anni, che erano particolarmente colpiti. Ho visto Pippo Baudo, ho visto Maurizio Costanzo. Non è banale che sia stata trafugata la salma di Mike Buongiorno. Al di là dell'aspetto criminoso, dell'aspetto vigliacco, dell'aspetto schifoso, rubare una salma, rubare un cadavere, è sempre qualcosa di terrificante se mosso da intenti di lucro. È molto probabile che l'abbia rubata, l'abbia fatto non per fare una bravata, che è un reato importante, grave, si rischia molto. Magari penseranno di trarre un profitto, chiedere un riscatto, come è già accaduto nel caso di salme di congiunti celebri, di personaggi celebri. Ma secondo me, nel caso del trafugamento della salma di Mike Buongiorno, il gesto assume un'accezione ulteriore, più profonda, su quale mi piace riflettere. La televisione in Italia è segnata dal 54 ai giorni nostri, nasce nel 54. Anch'io sono nato nel 54, quindi questa data per me è importante, fatale, è impossibile da dimenticare. La televisione aveva un unico, incontrastato e celebrato padre fondatore, che era Mike Buongiorno. Attorno a lui una cerchia di altri personaggi che finché lui era vivo potevano fregiarsi del titolo di padri fondatori allo stesso livello, con un primus inter pares che era Mike Buongiorno. Ma in realtà con la sua morte, in realtà lui è diventato il primo a tutti gli effetti, è stato portato sugli altari come il primo della televisione, il fondatore, il padre assoluto di tutta la televisione italiana. Quindi è come se fosse un santo, se vogliamo attribuire alla televisione un potere che vada oltre il semplice meccanismo affabulatorio e fascinatorio di un mezzo di comunicazione di massa. La televisione in realtà crea una sua mistica, la televisione crea una sua attesa, la televisione ha i suoi fedeli, la televisione ha le sue liturgie. L'anno comunque degli italiani è scandito sì dalle religiosità del calendario, delle laiche ricorrenze, ma anche dagli eventi televisivi. Si stiamo aspettando il Festival di Sanremo, seppur depotenziato, seppur relativizzato, è comunque un'importantissima scansione del calendario liturgico che detta la televisione. E Mike Buongiorno per quante edizioni ha celebrato e ufficiato questo rito fondamentale? Ora, accade nelle storie dei santi, nelle vicende che appassionano appunto gli agiografi, che molte volte in casi di rivalità o di bisogno profondo di richiamare l'attenzione del divino sulla propria realtà, qualcuno trafugasse le salme dei santi. Esistono storie fantastiche di santi rubati, trafugati, portati con le navi da un paese all'altro, riportati agli infedeli, gli infedeli a loro volta hanno ripresi. Insomma, questo furto della salma di Mike Buongiorno, esco e trascendo per un attimo dall'aspetto puramente legato al fatto di cronaca triste, come lo leggio nella faccia dei sopravvissuti. Ho visto Costanzo, ho visto Pippo Baudo non preparati a riflettere e ad essere interrogati a rispondere su questa domanda, perché sulla morte di un collega si riflette: è morto lui, meglio lui che me, tocca a lui, poi toccherà a me, uno si fa i suoi conti. Ma il trafugamento della salma è qualcosa di molto di più, una cosa che va oltre la morte, una cosa che attribuisce valore alla morte, ma ancor più attribuisce valore al ricordo, alla memoria. Non si trafuga una salma qualsiasi, si trafugano soltanto le salme dei santi, degli eroi o dei personaggi che comunque hanno lasciato un segno nella storia. Quindi, con la speranza che possa essere riportata ai suoi cari, al giusto e necessario meccanismo di elaborazione di un lutto, la salma e Mac Buongiorno, che siano trovati i responsabili, io non starei fino in fondo a affliggermi per questo fatto, ma direi che è un fatto ulteriore, un ulteriore passaggio che determina l'importanza e la centralità che ha avuto Mac Buongiorno nella storia degli italiani. Nessun segnale stanotte, nessun rumore strano, movimento? Ma, no, io non sono così vicino da sentire rumori, però quello che stamattina hanno visto che c'era qualcosa fuori posto, hanno controllato, hanno riscontrato il furto. L'oculo era proprio vuoto? Vuoto, altro che vuoto, sì, ho visto lì col malfatto lì, come si fa a non dire la che lapide c'è? Per terra? I mattoni? Detto, i mattoni? I mattoni in terra. Da dove possono averlo portato fuori? Cancello. Mike, figlio della televisione e padre allo stesso tempo della televisione, non può che gioire e rallegrarsi del trattamento televisivo della sua scomparsa. Sentite, sembra quasi che si parli, lo dico con attenzione e con profondo rispetto, di una risurrezione. Vanno e trovano un sepolcro vuoto. E le prime persone trovano un sepolcro vuoto e dicono dove sia finito. E comincia la trattazione televisiva. Io immagino che già tutt'oggi ci sarà senz'altro alimento, materia per tutte le pomeridiane, per tutte le serali, per tutte le vite in diretta. Oggi sarà un grande argomento, principe. La trafugazione oppure la scomparsa della salma del grande padre fondatore della televisione. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Io ho rubato spazio al nostro consueto argomento quotidiano, perché visto che oggi andiamo a parlare di racconto della fantastica criminalità attraverso il cinema italiano, soprattutto quella che attinge al mondo della fantasy, dei fumetti, non mi sembrava argomento migliore, visto che Mike appartiene a tutti noi, ma appartiene anche alla televisione, appartiene anche al racconto distorto della realtà e fantastico la realtà, iniziare con un'osservazione, un commento sulla scomparsa di questa salma. Tu che poi sei pugliese, di salme di santi scomparse, trafugate, ne sai qualcosa? Come i baresi rubarono San Nicola ai turchi a Mira, appunto, che poi è diventato Santa Claus. Comunque è un'icona pop, Mike, esattamente come quelle che andremo a trattare oggi, come, ovvero criminal, satanic, diabolic, ovvero il rutilante mondo dei fumetti che fu divorato e annesso e inglobato dal cinema e ritrasformato. Gli fu ridata l'infa vitale attraverso i fotogrammi del cinema. Ecco, non consideri che ci ascolta un accostamento blasfemo o riverente. Io penso che persone che hanno dato se stessi, anzi hanno trasfuso la propria identità umana nell'identità televisiva, non possono che essere d'accordo con noi se trattiamo personaggi della fantasia che diventano reali, perché diventano personaggi di cinema, frutti poi sempre di persone mitissime, tranquille, criminal, satanic, diabolic, vengono persone che non farebbero male una mosca, però hanno saputo prendere i loro fantasmi peggiori e trasformarli in qualcosa che ha rappresentato negli anni 70 l'icona del cattivo. Noi tutti ricordiamo non leggere quei terribili fumetti di Diabolik, venivano sempre detti con l'accento sbagliato, perché i genitori e i nonni allora erano talmente restii a pronunciare questi nomi impronunciabili che dicevano Diabolik, non c'erano mai Diabolik come andava detto. Le sorelle Giussani, se tu le ricordi, crearono Diabolik nel 62 perché gli venne in mente alla stazione Cadorna di Milano, vedendo tutti questi pendolari, gli venne in mente di fornirgli un fumetto tascabile da leggere e nacque quella formato di 150 pagine, di due vignette per pagina. Erano due ragazze di ottima famiglia, sì, raffinatissime, viaggiatrici, poliglotte, rarissime per i tempi. Una sorta di incrocio fra Jessica Fletcher e le due sorelle assassine della Casa delle Finestre che ridono di Pupi Avati, cioè quella mitezza che in realtà nascondeva l'esaltazione estetica del delitto, cioè Diabolik era inguainato in questa sorta di preservativo nero che lo tutelava dall'adulterio, devoto a Eva Kant, che come il suo illustre antenato aveva il cielo stellato sopra di sé, la legge morale dentro di sé e le natiche nervose poggiate sulla Jaguar tipo E. Insomma, l'importante era avere i gioielli e farlo in maniera estetica, poi si poteva strangolare, uccidere e trucidare chiunque. Però considera che, visto che noi parliamo di come questi oggetti della fantasia, queste opere d'arte si trasformano poi attraverso il fumetto, quando passano al cinema passano ancora nella fase ripulitura politicamente corretta. Oggi Diabolik non uccide più, oggi usa degli aghi e soporiferi, non sgozza più, oggi è diventato buonissimo, è quasi un paladino della giustizia, mentre allora accoltellava, sgozzava, uccideva, mandava aghi avvelenati. 800240024. Quindi il tema è chiaro oggi: i frutti della fantasia che hanno ispirato, solleticato, fatto sognare e fatto immaginare anche cose cattive intere generazioni passano attraverso il cinema. Crucio, dottore. I lama tibetani usano questa droga da 3000 anni. Crea uno stato di morte apparente che dura 12 ore. Dopodiché la morte diventa reale se non viene iniettato un antidoto. Quante ore sono passate, Eva? 11 ore e 57 minuti. Temevo fosse già tardi. Grazie. Eccola, hanno finito. Oh, sappiamo qualche cosa. Signorini, per favore, un istante, per me. Qual è stato il risultato dell'autopsia? Sì. Il professore risponderà alle vostre domande tra 10 minuti. Ma una piccola indiscrezione. Mi dispiace, posso dirvi solo che sarà sensazionale. Cosa? Diabolik è fuggito? Fuggito? Ma, ispettore, è impossibile. Non può essere. Giuseppe Sanson. È uno scherzo. Siamo abituati a vedere il fumetto Diabolik anche perché ha un'infinità di ristampe, tuttora viene stampato, lo vediamo, molte volte viene allegato ai grandi quotidiani, viene sempre visto con nostalgia dalle più vecchie generazioni e con attenzione dalle generazioni più nuove. Mio figlio legge Diabolik, io leggevo Diabolik, quindi un arco di tempo di 40 anni comunque continuano a leggere Diabolik. Nel cinema però è più raro, è stato un esperimento non sempre molto fortunato, oppure fortunato, trasporre il fumetto nel cinema? Non sempre. Diabolik, che abbiamo ascoltato, è un film di del genio Mario Bava, che nel 68 ne trasse una sua versione optical pop. La caverna che gli avevano dato, che era l'antro, un altro dei topoi di Diabolik, che aveva questi rifugi misteriosi sotterranei che in realtà sono forniti, sono fatti da una sorta di archistar, e Bava esalta questa dimensione. E poi c'è la dimensione del travestimento. Quello era un pochino ricalcato da tutti i fantaeroi americani: Batman alla Batcaverna, Superman al suo antro di Jor-El, dove c'è ancora il ricordo del suo pianeta Krypton. Un po' tutti super, anche l'uomo mascherato aveva una caverna. Però il primo, l'archetipo, è Fantomas, il francese Fantomas, che poi fu riportato sullo schermo generalmente da Feuillade. Quest'idea del travestimento continuo, cioè c'è una, la cosa più straordinaria di Diabolik, c'è una tribù che si chiama i Botang, che gli forniscono questa resina particolare per creare quelle maschere che lo rendono simile a chiunque lui voglia assomigliare. Lui è De Vacant, quindi possono diventare chiunque, assumere l'identità rutilante di chiunque. E l'altra cosa esilarante, sì, noi fantasticavamo molto, che ancora non c'era oggi questa idea del rifacimento facciale, dei siliconi e polimeri artificiali che possono mutare, quindi sappiamo anche noi c'era queste, metteva delle maschere di gomme e cambiava la faccia anche in maniera improbabile, ma ingannando i parenti, anche quelli più stretti, facendo sesso, insomma, cioè, però cambiando, bastava semplicemente questa resina di questa misteriosa tribù, perché tutto è illusorio. Anche la stessa Clerville è un posto che non esiste, un luogo esotico dell'immaginario delle sorelle Giussani, che è situato a metà strada fra Marsiglia, Londra, è una sorta di non luogo, e Genf invece, la città in cui vanno, è una sorta di versione rielaborata di Marsiglia. Quindi questa, l'amore verso i coltelli, verso il pentotal, il siero della verità, cioè tutta una serie di cliché che loro ripropongono ossessivamente da anni. E che però anche in questo caso abbiamo sentito la clip Il siero della finta morte, che a 3 minuti dallo scadere delle 12 ore perfette, mai non esiste un farmaco così calibrato, lui si risveglia. Sì, preso dai lama tibetani, quindi c'è tutta una rielaborazione di sincretismi vari che ne fanno un'icona pop che sopravvive al tempo. Andiamo avanti. 800240024, quale ricordo avete di questi fantastici eroi noir degli anni 70, 80, ma che perdurano fino ad oggi? Soprattutto, vi è capitato di vederne la versione cinematografica? Ancora pochi minuti, Sir Winston, e l'incubo sarà finito. L'esecuzione avrà luogo alle 5:10 in punto. Vi confesso, ispettore Milton, che i minuti sono lenti a passare. Voi comprenderete la mia agitazione, caro Maigret. Da quando siamo riusciti a catturarlo, non ho fatto che attendere questo momento. Criminal, un nome che in poco più di un anno è diventato famoso in tutto il continente. A Parigi non si parla d'altro. Un individuo eccezionale quanto ad intelligenza e sangue freddo. Nessun nome potrebbe adattargliesi meglio di questo. Che lui stesso si è scelto, del resto. Purtroppo la sua reale identità resterà avvolta nel mistero. Questo è un altro personaggio dei fumetti di quei tempi, Criminal. Questo è un film che appunto narra le vicende di questo altro eroe, Giuseppe Sansonna. Criminal fu inventato da Luciano Secchi, alias Max Bunker, e Magnus, il grandissimo disegnatore europeo. Quelli di Alan Ford. Esattamente, però fu il loro primo personaggio, e rispetto a Diabolik c'era... innanzitutto si vedevano le donne con la loro lingerie, le donne nude, c'era tutt'altra rispetto al puritanesimo di Diabolik. Poi Anthony Logan alias Criminal e poi la sua gemella donna in un altro fumetto sempre degli stessi autori, cioè Satanic. Beh, Satanic era nella sua fase, non perché Satanic aveva una doppia natura, in realtà era una vecchissima, orrenda, prendeva anche lei una specie di siero e diventava ipergnocca. È un personaggio straordinario, perché è Satanic, lei è devastata, una biologa devastata, orribile, da un angioma, come Mr. Hyde femminile, riesce a trovare un siero per diventare bellissima, quindi è una donna che si autodetermina, è un'icona che poi rimanda al Kill Bill di Tarantino moltissimi anni dopo, però in Italia era già nata questa icona di donna che poi uccide tutta questa pletora di capitalisti obesi, di facce torve, li punisce con crudeltà. C'è gente che vuole concupire la sua procacia, lei sul furia e lubrica, fa una strage. E Criminal invece aveva questa tuta da scheletro bellissima, che era legata al suo passato di trapezista, perché la differenza poi con Diabolik è che in Diabolik c'è un non tempo circolare, invece in Criminal e Satani, che poi negli anni 70 sono finiti con le loro saghe, c'è una saga che si evolve nel tempo, e c'è un po' la Zola, alla naturalista, come in omaggio al naturalismo francese, ci sono delle cause per cui loro sono così cattivi, appunto Satanic perché è nata molto brutta con questo angioma che la devastava, e con queste sorelle bellissime e crudeli che lei punisce uccidendo poi una volta che sarà diventata Satanic. E Criminal invece ha avuto il padre costretto al suicidio, la sorella violentata e suicidata, la madre uccisa, insomma tutta una serie di anomalie di feroce che la vita gli ha riservato, che lo hanno reso appunto Criminal, e in vendetta con un mondo laido e perverso. Abbiamo al telefono il maestro Umberto Lenzi. Umberto Lenzi, buongiorno. Buongiorno. Umberto Lenzi, noto regista di film che spesso noi abbiamo trattato, soprattutto quelli di genere dedicati ai grandi scontri di polizia nell'Italia, appunto, dei pre-anni di piombo. Ha anche diretto un film dedicato a Criminal nel 66. Come le venne, maestro Lenzi, l'idea di trattare un fumetto al cinema, che è una cosa abbastanza singolare? Scusate per il raffreddore, premesso che non voglio essere chiamato maestro, ma semplicemente Lenzi. L'idea di fare un... Non era un'offesa. No, anzi, ma sono io che ritengo modestamente di essere un buon professionista, ma non un maestro. Maestro era Monicelli, De Sica, eccetera. Allora... guardi, per noi affezionati del cinema di genere, lei è un maestro, non lo considero né un titolo elogiativo né esornativo. Allora va bene. È divertente. Poi il maestro è quello che è la prima figura da cui abbiamo appreso qualcosa. Va bene, maestro in questo. Va bene, allora soprassediamo. Anche un artigiano è un maestro, se esatto, ci pensa bene. Esatto. Meglio maestro che professore, che dottore, sì, commendatore, che cavaliere. Maestro va bene, dai. Va bene, allora l'idea mi venne perché avevo letto Diabolik e poi mi capitò di leggere anche Satanic. È un produttore mio amico, io proposi Satanic, però in una riunione che lui ebbe con l'editore Corno e anche con Luciano Secchi, che era l'autore del fumetto, non ci fu un accordo, perché sembra che qualcuno già avesse opzionato questa personaggio. Allora ripiegai su Criminal. Ma fu fatto poi il film con, sì, Satanic? A Vivarelli l'ha fatto, fu fatto Piero Vivarelli, un mio collega, carissimo amico, scomparso il mese scorso. Perché io rifiutai, dopo il primo Criminal, di continuare questa serie, avevo altri impegni, altri problemi. Però quello che voglio dire, per riferendomi a quello che ho sentito da parte vostra pochi minuti fa, è che il fatto del background dei due personaggi, quella che aveva la sorella, il Criminal che aveva la madre violentata, il padre, così, erano espedienti per superare la censura, perché non dobbiamo dimenticare che negli anni 60 la censura era fortissima, non è come ora, anche nei film non si potevano mostrare atti sessuali, ma solo suggerirli in modo ellittico. Sì, poi c'era l'inquadratura del caminetto. Esatto, per cui non è che questi personaggi avessero del background giustificativi della loro violenza, sessualità, erano soltanto espedienti. Bisognava dire che erano cattivi perché la vita era stata cattiva con loro. Sì, va bene, però erano cattivi perché faceva comodo irretire un pubblico che ama la violenza. Questo vale anche per i miei horror che ho fatto e che sono i film oggi, quelli di Cannibale che ho fatto, sono quelli più richiesti in tutto il mondo, perché c'è una tendenza forse di estrinsecarsi. Sì, il cannibalico nasce in Italia, diciamo la verità. Sì, sì. È che è la radice di tutti gli zombie di oggi, tutte queste cose qua, un misto. Si nasce in Italia proprio con Freda, Margheriti e il grande Bava, ma insomma questo è un altro discorso. Io quello che volevo dire è che Criminal io non lo volevo fare e non lo feci con la sceneggiatura, il soggetto di Luciano Secchi, seguendo questa grande violenza che aveva il personaggio, cercare di farle una specie di Arsenio Lupin, cioè un personaggio tutto sommato con dei tratti ironici, che compiva delle azioni delittuose, ma sempre con un far play, con un certo divertimento. E infatti scrissi io il soggetto e la sceneggiatura di questo Criminal, che ebbe tutto fuorché la violenza, ma soprattutto invece delle trovate divertenti, anche con un certo peso di drammatico, però sempre nei limiti di un racconto che si rifaceva più agli autori francesi di fine 800 e di primo 900 che alle imprese. Si è ripreso un po' il feuilleton. Senta, Umberto Lenzi, se lei ha la bontà di aspettarci soltanto qualche istante, diamo un attimo la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo con lei. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Che tipo di uomo crede che io sia? Don Giovanni, è evidente. O forse un barba blu. Ecco, sì, sono finita nella tana del barba blu e ho tanta paura. Cosa farà di me? Vorrà mangiarmi? No, non mi piace così. E com'è che ti piace? Ah, diciamo secondo il valore delle cose. Spiegati. Questa era Satanic, rivisitata in un film, visto che questa mattina stiamo parlando della rilettura attraverso il cinema di quelli che erano i fumetti neri degli anni 60, fine anni 60, anni 70, fino a parte degli anni 80. Ancora perdurano per gli appassionati, soprattutto Diabolic, ancora penso sia regolarmente pubblicato, perlomeno lo vedo nelle edicole, ma Criminal, Satanic, se ne sente parlare sempre meno, surclassati da nuovi eroi, da nuove crudeltà, da nuovi film. Ma noi ricordiamo con grande nostalgia, soprattutto Satanic, avete sentito in questo film, a sentirla recitare sembra tutt'altra cosa rispetto a quella che immaginavamo noi. Aveva questa duplice natura, orripilante, Rinni scarnificata nella sua versione reale, naturale di scienziata che aveva avuto una sorta, adesso non ricordo bene, le era caduto un acido addosso, una malattia, un angioma c'aveva i denti come uno scheletro, sì, capito, sì. Cosa, e diventava gnocchissima, super bella, poi il tratto appunto, conservando l'intelligenza del passato, tra l'altro, sì, sì, un mix erano le prime forme procace, anche se spesso sempre avvolta da una tuta che copriva tutto, ma era una tuta che come fosse una seconda pelle. Invece nel caso di Criminal, di cui abbiamo parlato prima, abbiamo al telefono Umberto Lenzi, che diresse nel 66 proprio il film dedicato a Criminal. Giuseppe Sansone, devi fare una domanda al maestro Lenzi. Sì, mi interessava appunto, lei parlava dell'approccio diverso rispetto alla carica anche violenta, sulfurea, che ha il personaggio di Criminal, di questi primi piani un po' alla Sergio Leone, che è il fumetto, queste battute feroce alla Sergio Leone che sono insite nel lessico di Secchi, di Max Bunker. Lei ha fatto un film invece come anni dopo, come Milano odia, la polizia non può sparare, che io considero un capolavoro, in cui c'è molto invece di quella virulenza alla Criminal del fumetto. Non so se... Sì, lei ha ragione, devo dire che tutt'oggi ricevo da ogni parte del mondo dei giudizi positivi su Milano odia, però anche Criminal ha ancora molto successo, è uscito in DVD ed ha molti riscontri. Quello che volevo dire è che io sostituì nel personaggio la violenza con l'astuzia e c'è un delitto, lui uccide uno spregevole personaggio che è Lady Gold, la dirigente di una multinazionale, ma soprattutto imperniai la storia in un modo divertente, perché questa Lady Gold spediva una grande partita di diamanti a Istanbul e per sfuggire a Criminal, che sapeva che era in agguato, si avvaleva di un espediente abbastanza divertente e inconsueto, cioè faceva partire due gemelle insieme all'aeroporto, due gemelle identiche, e una aveva una valigetta con diamanti veri e una con diamanti falsi, per cui era convinta che Crimina non potesse individuare quale delle due derubare. E una veniva sacrificata, naturalmente. No, no, no, cioè, non ho, Crimina le seduce tutte e due. Poi una di queste si muore, però l'altra viene sedotta da Criminal, che poi si impadronisce dei diamanti, perché c'è tutto un groviglio di situazioni dietro, cioè la gemella che portava diamanti era a sua volta in combutta con un altro criminale per spartirsi il malloppo, per cui Criminal, dopo averla identificata, si trova di fronte al problema di eliminare sia lei che il suo complice, però con mezzi ancora una volta di astuzia, e infatti riesce a Istanbul dopo una serie di avventure spericolate. E lei andò a girare proprio in Turchia al film? No, sì, ho girato a Londra. Ah. All'inizio a Londra, quando lui sfugge in modo periglioso all'impiccagione, poi ho girato le scene a Roma e all'aeroporto di Fiumicino, perché questa Lady Gold aveva la multinazionale qui, e poi a Madrid tutta la parte si riferiva alla Spagna, cioè dove dovevano essere trasferiti i diamanti, e poi tutto il resto a Istanbul, perché la ragazza con la valigetta con gioielli veri si rifugiava a Istanbul. E quindi il film è molto internazionale, sia come cast che come location. E per dargli questo sapore così dissacratorio, divertente e fumettistico, io ho fatto tutti i titoli di testa sul fumetto, e anche la fine del film è tutta sul fumetto disegnata. Senta, come ha risolto il problema proprio del fisico di Criminal, che nel fumetto è un fisico stupendo? A quei tempi era un po' più difficile, però non c'erano ancora queste sculture umane. Sì, ma guardi, la scelta era dovuta a delle esigenze di questo genere, cioè farne un muscle man come magari risulta dal fumetto significava trovare anche questi attori che avevano fatto i macisti, prende un culturista, Luferrigno. Però erano ormai fuori moda. Oppure trovare una faccia divertente, bella, di un bel ragazzo, che però fosse più ironico rispetto al personaggio del fumetto. Cioè, infatti ha un fisico un pochino più normale, ha la tutina con lo scheletro, però il fisico è più vicino a un fisico normale, ecco. Ce l'ha, però ha un fisico meno grosso, meno da culturista, ha un fisico più normale, però tutto quello che fa è straordinario. Pensi che, controfigurato ovviamente da uno dei migliori stuntman che sia mai esistito in Italia, addirittura si butta da un ponte su un treno in corsa, e poi si rialza e arriva correndo fino al tender, fa delle cose acrobatiche come arrampicarsi su una villa a Istanbul, così come se fosse una parete normale, come lui, come fosse un ragno. Quindi non era un supereroe, ma aveva delle qualità ginniche e fisiche, esatto, invidiabili. Notevoli, però aveva questo spirito sarcastico che lo aiutava molto. E poi il fisico doveva essere bello e seducente, perché quando si toglie la tuta e agisce come un altro personaggio, tipo Fantomas, tanto per darci un'idea, no? Allora doveva essere attraente, perché poi seduceva. E la tuta la usava soltanto quando doveva agire in modo nascosto. Ecco, sentiamo un attimo, c'è un ascoltatore, Stelio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti. Eccoci. Ecco, io volevo mettere una piccola chicca dentro questi suoi interventi, perché oltre a Criminal, Satanic e sul successo di Diabolic, venne fuori anche per alcuni numeri un altro di questi strani Fantomas, si chiamava Infernal. Ah, io non me lo ricordo, come funzionava? Adesso le spiego. Sulla scia appunto del successo di Diabolic, il direttore di allora dell'Europeo incaricò Alberto Ongaro, lo scrittore Alberto Ongaro, che probabilmente lei conosce. Sì. Ecco, e che è un mio carissimo amico, perché io faccio parte dei disegnatori di, assieme a Ugo Prato, ho continuato i suoi disegni, eccetera, no, e incaricarono appunto Alberto Ongaro di fare una sceneggiatura, e assieme al disegnatore Pavone, già collaboratore ancora lui di Lasso di Picche, eccetera, eccetera, no, facemmo in poche notti il primo numero. No. E il secondo numero non lo facemmo perché gli editori trovarono dei ragazzi di allora, anche no, anch'io ero ragazzo allora, che disegnarono per minor prezzo, insomma. Perciò il giornale penso che dopo 3-4 numeri sia fallito. Io vedo, sto vedendo adesso, ho fatto una ricerca in internet che dice Infernal è un fumetto creato da Diego Vida, non è quello di cui parlo. No. Disegnata dall'artista Francesco De Roma. Quindi, c'erano varie versioni, diciamo, e varie filiazioni. Sanson. No, io non lo conosco, però ero molto affascinato. Ma Infernal o Inferner, com'era la dizione del personaggio? Non è... Era Infernal. Ah, Infernal, ho capito. Ma è molto interessante, invece, molto. Sarebbe bello recuperarlo. Com'è possibile recuperarlo? Sarebbe affascinante. Ah, io ho da avere un numero, insomma. No? Quindi è uscito in versione molto limitata, praticamente non. Ma, perché voi sapevate che era un filone quello molto proficuo a quel tempo, cioè se ne parlava molto di questi fumetti che più erano maledetti e più erano censurati dall'opinione pubblica, dal ben pensanti, più erano comprati e venduti di successo. Era un'epoca, Nicoletti, io sono stato anche il creatore di Giungla, un personaggio che tuttora in Italia ha tanti estimatori. Quella volta lì Umberto Eco mi definì il porno disegnatore europeo. Comunque adesso con Umberto Eco siamo d'accordo, siamo amici, eccetera. La Giungla me la ricordo, era una eroina procace, molto poco vestita, tipo Iacula. Molto poco vestita, ma roba da sagrestia adesso. Sì, oggi sì. Quindi lei, diciamo, viene ristampata ancora in Belgio, adesso sta analizzando i vecchi numeri e viene ristampata in Belgio per amatori, e è andato il primo numero, è andato all'Accademia Reale di Bruxelles. E al tempo mi sembra ci fu una grossa polemica su questo Giungla, ci furono sequestri, cose varie, la fecero rivestire, o mi sbaglio? No. Io la tenni sempre con quel strettissimo, ridottissimo bikini, insomma. Allora, ci sentiamo tra un istante e ringraziamo l'ascoltatore che ci ha dato questa testimonianza di quello che era il clima dei tempi, e tra un istante, dopo l'informazione del traffico, si salutiamo anche il maestro Umberto Lenzi. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. A te avevo dato un sonnifero. La servitù licenziata ero solo con lui. Antonino, caro fratello mio, dimmi un po', ti ho visto nessuno entrare, ti ho visto? No, fratello caro, mi pare di no. Ma perché tutto questo mistero? Già, tu non sai... Cosa? C'è qualcuno che ha deciso di ucciderti. Di uccidermi? Santo cielo, e chi è che vuole uccidermi? Un certo... Diabolicus. Lo conosci? Io non. Io invece sì. Vedi, io e Diabolicus siamo una persona sola. Galeazzo, cosa fai? Che scherzi sono questi? Metti giù quel tagliacarte. Non è un tagliacarte, Antonino. Naturalmente, il genere di cui stiamo parlando era talmente nell'area, talmente discusso, che aveva anche il suo versante satirico. Questo è Totò Diabolicus, un film di Steno del 62, in cui Totò fa il marchese Galeazzo di Torre Alta, che viene trovato assassinato il marchese Galeazzo di Torre Alta viene trovato assassinato nella sua villa. E quindi entra in gioco questa sorta di misterioso essere Diabolicus, e naturalmente c'è di mezzo Totò, e fa morire da ridere il fatto che anche la satira del tempo interpretata da Totò toccava questo argomento, che è un argomento molto spinoso. Sanson, Totò qui interpreta 4-5 personaggi con la sua capacità istrionica strepitosa, sul furia anche questa, e fa emergere il lato più velenoso della sua personalità nell'incarnare questo fascista sansepolcrista, questo vescovo, questa sorella aristocratica, e riesce a muoversi da mattatore, e anche qui emergono i cliché tipici di questo genere letterario fumettistico, ovvero le maschere in resina, i pugnali, i veleni, tutta quella serie, tutto l'arsenale che però viene rimesso in gioco, mostrando anche il lato feroce di questa aristocrazia, anche qui dal punto di vista proprio dell'immaginario. Totò riesce a darci una pennellata decisiva. Scrivono su Facebook gli ascoltatori che in realtà uno dei dilemmi di chi legge questi fumetti è dove questi eroi come appunto Diabolic, Criminal, che hanno delle tute attillatisse, non avevano nulla, non avevano tasche, borselli, dove tenessero il pugnale. Lei si è posto questa domanda, Umberto Lenzi, l'ha risolto nel film? Sì, ma io l'ho risolto senza fargli avere il pugnale quando ha la tuta. Agisce in modo molto diverso da quello della pugnalata alla schiena, come già spiegato prima, ha delle astuzie diverse. Per esempio, fa fuori un personaggio mettendogli dell'acido cloridrico che fa sfigurare la faccia, insomma, glielo mette dentro il profumo del dopo barba, per cui questo, cioè, l'acido solforico sarà un muriatico, solforico forse, il vetriolo. L'acido cloridrico, quello che il vetriolo ci mette. Il vetriolo, esatto. Questo signore va a farci la barba, poi si dà il dopo barba e si sfigura tutto. Con il Floyd si dà con la pompetta e si sfigura. Senta, maestro, ma invece lei Satanic, quello di Vivarelli, le è piaciuto? Magda Konopka le è piaciuta? E lei come l'avrebbe fatto Satanic? Io l'avrei fatto con Lisa Gastone. Ah. Perché Magda Konopka era una bellissima donna, ma era una mediocre attrice, mentre Lisa Gastone era una bellissima donna e una grande attrice. Ma avrebbe insistito sulla connotazione di indipendenza, sì, però, di forza. Sì, di... Però guardi, io in effetti feci il primo e poi non volli fossilizzarmi nella continuazione degli altri, perché io abbandonai la regia del marchio di Criminal, che poi fece Fernando Cerchi. Avevo scritto io il soggetto, poi però preferì andare a fare dei film diversi che mi offrivano più possibilità di successo. Ma Lisa Gastone avrebbe indossato la tuta e fatto un personaggio così fuori, diciamo, dagli standard delle attrici? Ma io penso di sì, perché ha fatto dei film di diverso genere. Poi in quel momento c'era un grande ritorno di successo per questi personaggi. Voi ne avete citato uno che io non ho mai sentito nominare, ma vi posso dire, oltre a Criminal Satani, chi c'era? Sempre dell'editore Corno c'era Mister X, poi ce n'era un altro straordinario che si chiamava Killing. Ci hanno fatto ora al Centro Sperimentale una trasmissione, una lezione intera. Questo Killing era Criminal fatto a fotoromanzo, un personaggio che era simile a Crimina, però a fotoromanzo, cioè fotografato, la regia, la fotografia e tutto, e usciva a fumetto, ebbe un successo strepitoso, però durò pochi numeri perché era talmente violento che credo fosse stato chiuso per la censura. Hanno fatto un documentario recente, The Diabolical Super Criminal, esatto, dedicato a questo. No, è stato fatto poi un convegno a Cinema Trevi organizzato dalla Cineteca Nazionale. Sentiamo un attimo l'ascoltatore Stefano, proprio in chiusura. Stefano, sì. Buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti, complimenti. Lei cosa ricorda? Ecco, volevo aggiungere anche un paio di personaggi, sempre dello stesso periodo e sempre disegnati dallo stesso autore, che sono nell'ordine Dennis Cobb, agente segreto 0018. Ah, è vero. Che è il solito biondino di Max Magnus, insomma, un Alan Ford con i capelli corti, per capire un po' l'aspetto. Sì, è vero. È un po' l'antagonista di James Bond, per capirci. E l'altro è una donna, una ragazza che si chiama Jezebel, non so se l'avete già nominata, però anche lei ha avuto un grande successo nel periodo, avvenente ragazza ovviamente, proiettata più nel futuro come periodo, però sempre disegnati da Max Magnus, eccetera. Max Magnus era un personaggio. Max Magnus era in realtà un personaggio, lapsus è molto bello, perché era un personaggio di Bunker e Magnus, che erano invece due l'autore, sì, che furono salgarianamente prolifici in quel periodo nell'ingorgare tutti i generi, nel rivitalizzare e inventare di fatto i generi fumettistici che poi diventarono anche cinematografici, anticipando molte il senso del grottesco, diciamo prima, l'uso violento del primo piano che faceva Magnus, anche mettere i personaggi completamente in nero, la battuta fulminante, l'espressività grottesca inserita nell'horror, era innovativo, molto innovativo. Diciamo che le produzioni forse più vicine alla contemporaneità sono gli album più raffinati, con le storie erotiche, le pillole dell'imperatore, che è qualcosa che è già passato di genere, è diventata una cosa per soli amatori. Poi, tu sai com'è morto Magnus? No. Facendo, in 7 anni, facendo l'ultimo album di Tex, e quando glielo chiese, dice, ma perché hai fatto Tex per 7 anni? Dice, perché mi sembrava una buona bandiera sotto cui morire. È voluto morire sotto Tex. Siamo arrivati alla fine della trasmissione. Io vorrei fare una proposta, se le va, Umberto Lenzi, le andrebbe di tornare un'altra volta con noi a parlare dei film di poliziotti? Che... Volentieri, ma io volevo dire questo, perché non avete detto, io sono stato a dicembre al Courmayeur, al film Noir in Festival di Courmayeur, dove hanno fatto tutta una rassegna di film tratti dai fumetti e hanno proiettato Il mio crimine, su cui io sono intervenuto a parlare col critico Marco Giusti, e poi hanno proiettato Satanic e poi qualcun altro, ora mi sfugge, io sono rimasto solo 3 giorni. Ma noi li proiettiamo alla radio facendoli ascoltare, non avendo a disposizione il cinema. E quindi, ma volevo dire questo, è un forte ritorno di interesse su questo genere che ormai è dimenticato, che però ha avuto il suo momento di gloria. E poi abbiamo visto che sono tutto questo genere era motivato, comunque era una lettura che era uno specchio segreto alla società. Andavano quei fumetti, la gente leggeva quei fumetti, e soprattutto poi la gente seguì con grande interesse i film di poliziotti, perché poi sarebbe accaduto qualcosa in Italia che in qualche maniera era il risultato di ciò che veniva annunciato e profetizzato da questo genere. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Alessandro Chiappini, grazie Fabrizio Intonti e grazie al maestro Umberto Lenzi, che riavremo presto a questi microfoni. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.